Nel vuoto sforno pensieri, Cristo, poi si perdono nel vuoto. Come li pensassi gettassi dentro l'ignoto. Come se il futuro più prossimo fosse remoto, ed il passato sgretolato fra il boato d'un terremoto. Intanto non capisco se quello che faccio è vuoto, se il sentiero che percorro mi porta verso l'ignoto. Perso nello spazio nel suo punto più remoto, dove non percuotono i colpi del terremoto. Arido il terreno sotto i piedi, il clima è gelido. Ho piantato il mio raccolto ma poi se l'ho abbandonato. In più non l'ho innaffiato, nemmeno concimato. O forse solo il freddo che è arrivato inaspettato. Ma non ho più un passato e per ricominciare a coltivare questo campo dovrà fisso essere bruciato. Il dubbio si avvicina, se ripartire da capo, andare a piedi fino in Cina. Errare, errare e ancora vagabondare, per poi conservare ogni esperienza fino al giorno di crepare. Senza più pensare a quel campo lontano che non riesco a coltivare. Sforno pensieri, Cristo, poi si perdono nel vuoto. Come li pensassi gettassi dentro l'ignoto. Come se il futuro più prossimo fosse remoto, ed il passato sgretolato fra il boato d'un terremoto. Intanto non capisco se quello che faccio è vuoto, se il sentiero che percorro mi porta verso l'ignoto. Perso nello spazio nel suo punto più remoto, dove non percuotono i colpi del terremoto. Acido il mio cuore che non batte, il corpo è gelido. Ho mollato la mia ex e poi mi sono annichilato. Di alcolici innaffiato, di fumo concimato. E forse poi il collasso è arrivato insospettato. Ma non ho più un passato e per ricominciare a camminare questo corpo dovrà fisso essere scaldato. Il dubbio mi allucina se togliere il mio capo da sta sporca ghigliottina. O errare, errare, ancora di più sbagliare, fino ad annullare ogni memoria per poter così crepare. Senza più pensare a questo corpo strano che non vuole camminare. Sforno pensieri, Cristo, poi si perdono nel vuoto. Come li pensassi gettassi dentro l'ignoto. Come se il futuro più prossimo fosse remoto, ed il passato sgretolato fra il boato d'un terremoto. Intanto non capisco se quello che faccio è vuoto, se il sentiero che percorro mi porta verso l'ignoto. Perso nello spazio nel suo punto più remoto, dove non percuotono i colpi del terremoto. Thank you.